piccolino, piccolino che... ti ascolto, andata lì. L'importante è che mi ascolti, da. Adesso sto aspettando che quello là mi chiami, così so cosa devo fare. Parli parigi, se così che vai. Già fatto, già fatto. E allora, è già attaccato, hai duro. Pusi ti vede l'antenna, moga nel tutto e poi che sei da giudizio. Ce l'ho in macchina, quella magnetica. La prendo e la metto fuori. Quella lì. Ne tolgo la base magnetica e me la metto fuori. E mi fai la massa al coso del poggiolo, della finestra. Non ti preoccupare, già non attaccare, non devi attaccare dall'antenna l'attacco. Elimino un po' di sezione, un pezzo lo lascio, no? Per mettere le antenne. Vabbè, il tubo sì. E faccio così. Così vediamo a vedere cosa ne dice il cuglione. Aspetta un attimo, vada lì. Natali. Aspetta, ma nuova. Ma un microfono amplificato non lo puoi mettere? Qua no, non mi accetta questo qui. Aspetta che sono al telefono, ma nuova. E dai, mi accetta, così vado a togliermi questa divisa. Ok, ciao. Briciola, attento, briciola, se sei all'ascolto, cara cara, briciola ci sei. Briciola ci sei, attento, briciola.